Mix 24, i gialli della storia. Sembra diventata l'ossessione del nostro tempo, consumare. Come se davvero consumare di più fosse la ricetta per uscire dalla crisi e di conseguenza che se le cose non vanno bene è perché si consuma poco. Una sorta di religione del consumo che ha una data di nascita precisa, Natale 1924. Quando i rappresentanti delle principali aziende elettriche del mondo si riuniscono a Genova per prendere una decisione apparentemente insignificante e che tuttavia a suo modo cambierà il mondo. La durata di una lampadina non deve superare le 1000 ore. È la prima volta che si abbrevia di proposito la vita di un prodotto per far crescere le vendite. È la cosiddetta obsolescenza programmata, un meccanismo occulto che cresce nelle società consumistiche e che ne sostiene lo sviluppo. Noi oggi a Mix 24 racconteremo questa storia con l'aiuto di esperti e giornalisti come Markus Krajewski, storico della scienza. Il Natale del 1924 fu davvero speciale. In un retro bottega di Genova, alcuni gentiluomini in completo gessato si riunirono per tentare di attuare un piano segreto. Istituirono il primo cartello a livello mondiale. Il loro scopo era quello di controllare la produzione di lampadine e di spartirsi la torta del mercato mondiale. Questo cartello fu chiamato Phoebus. Il Phoebus comprende i principali produttori di lampadine in Europa e negli Stati Uniti, comprese le lontane colonie in Asia e in Africa. L'obiettivo era quello di scambiare brevetti e controllare la produzione, ma soprattutto di controllare il consumatore. Queste società preferiscono che il consumatore acquisti le lampadine regolarmente. Se queste ultime sono usate per molto tempo, per l'industria c'è uno svantaggio economico. Da principio i produttori si sforzano di garantire una lunga durata alle lampadine. Il 21 ottobre 1871 furono condotti numerosi esperimenti per produrre una piccola serie di lampade relativamente assai resistenti, perché il filamento fu trattato in condizioni di grande stabilità. La prima lampadina commerciale di Thomas Edison, uscita in vendita nel 1881, dura 1500 ore. Nel 1924, quando viene istituito il cartello Phoebus, i produttori pubblicizzano con orgoglio una durata pari a 2500 ore, sottolineando la longevità delle loro lampadine. I membri del Phoebus, a quel punto, pensarono di limitare la durata delle singole lampadine a 1000 ore. Nel 1925 venne creato un apposito comitato, il Comitato delle 1000 ore di vita, che si era prefisso lo scopo di ridurre la durata delle lampadine impiegando tecniche specifiche. Più di 80 anni dopo, Helmut Höge, uno storico di Berlino, scopre le prove delle attività del comitato, nascoste in documenti appartenuti ai membri fondatori del cartello, come la Philips in Olanda, la Osram in Germania e la Compagnie de Lampes in Francia. Qui c'è un documento del cartello. Dice: la durata media delle lampade per fornire elettricità non deve essere né garantita né divulgata e né offerta ad un valore diverso da 1000 ore. Sotto la pressione del cartello, tutte le società membri effettuano esperimenti per creare una lampadina più fragile, conforme alla nuova regola delle 1000 ore. La produzione viene rigorosamente monitorata per verificare che tutte le aziende del cartello si conformino. Uno dei provvedimenti consisteva nel sistemare un cestello di collaudo con dentro molte portalampadine, nelle quali poi erano avvitati i singoli campioni di produzione. In questo modo, società come la Osram ottennero straordinari record di longevità per le proprie lampadine. Il Phoebus rinforza le sue regole attraverso una burocrazia complessa. In caso di irregolarità nei rendiconti mensili, un'azienda subisce sanzioni pesantissime. L'obsolescenza programmata comincia ad avere effetto. La durata delle lampadine si riduce drasticamente. In soli 2 anni passa da 2500 ore a meno di 1500. Il cartello raggiunge il suo scopo prima degli anni 40. La durata media delle lampadine è scesa a 1000 ore. Si può intuire come nel 1932 tutto ciò fosse molto allettante. A quei tempi la sostenibilità non era affatto un tema sul tappeto. Nessuno si preoccupava che il pianeta avesse una quantità limitata di risorse. Tutto veniva visto da una prospettiva di abbondanza. Nei decenni successivi, gli inventori registrano dozzine di brevetti per nuove lampadine, tra cui una che durava 100.000 ore. Nessuna di quelle lampadine riesce però a sfondare sul mercato. Anche se le sue azioni non sono mai state completamente nascoste al pubblico, ufficialmente il Phoebus non è mai esistito. La sua strategia era quella di cambiare nome continuamente. Si sono fatti chiamare Cartello Internazionale dell'Elettricità, poi hanno cambiato di nuovo. La cosa fondamentale è che questa ideologia, in quanto istituzione, esiste ancora. L'obsolescenza programmata è nata insieme alla produzione di massa e alla società dei consumi. È un fenomeno legato alla rivoluzione industriale, quando si produceva a prezzi molto bassi. Sicuramente un vantaggio per i consumatori, ma la produzione era talmente elevata che era molto difficile smaltire le scorte accumulate. Già nel 1928 un'importante rivista pubblicitaria sentenzia: per il mondo degli affari, un capo d'abbigliamento che rifiuta di consumarsi è una tragedia. Di fatto, la produzione di massa diffonde la disponibilità di molti beni fino a quel momento inavvicinabili. E con il calo dei prezzi, la gente inizia ad acquistare per divertimento invece che per necessità. E l'economia fiorisce. Poi, dal 1929, lo sviluppo della società consumistica si arresta all'improvviso. Il crollo di Wall Street fa precipitare gli Stati Uniti nella Grande Depressione. La gente non fa più la fila per lo shopping, ma per lavorare e mangiare. Da New York arriva una proposta radicale su come riavviare l'economia. Bernard London, importante mediatore immobiliare, suggerisce di porre fine alla depressione rendendo l'obsolescenza programmata obbligatoria per legge. È la prima volta che questo concetto viene messo per scritto. Secondo la proposta di London, occorre attribuire a tutti i prodotti una prospettiva di vita e una data di scadenza, decorsa la quale saranno dichiarati ufficialmente morti. Una volta consegnati alle agenzie governative, verranno quindi distrutti. Bernard London ritiene che con l'obsolescenza programmata obbligatoria, il motore dell'industria ripartirà insieme ai consumi, debellando così la disoccupazione. Giles Slade è venuto a New York per saperne di più su quest'uomo e sulle sue teorie. Vuole sapere se per Bernard London l'obsolescenza programmata era solo un mezzo per trarre profitto o serviva davvero ad aiutare i disoccupati. Dorothea Weitzner ricorda di aver incontrato Bernard London negli anni 30, durante una gita di famiglia. Lei ha incontrato London nel 1933? Sì, quando avevo 16 o 17 anni. I miei genitori avevano una Cadillac grande come un dirigibile. Quel giorno mia madre ci faceva da autista, mio padre le era seduto accanto e i coniugi London erano sui sedili posteriori di quella grande limousine. Mio padre disse che il signor London mi avrebbe illustrato la sua filosofia. Era un uomo molto interessante. In poche parole mi disse che la sua intenzione era di sconfiggere la depressione. Vivevamo in tempi davvero difficili, anche peggiori di adesso. London era ossessionato da quest'idea. Mentre eravamo nell'auto, mi sussurrò: ho paura che le mie idee siano un po' troppo radicali. E infatti la proposta di Bernard London viene ignorata. L'obsolescenza obbligatoria non diventa mai legge. 20 anni dopo, negli anni 50, l'idea ritorna all'attualità, ma con una differenza sostanziale. Invece di imporre l'obsolescenza programmata al consumatore, bisogna che l'acquirente potenziale sia sedotto dal prodotto. L'obsolescenza programmata è il desiderio del consumatore di possedere qualcosa di un po' più nuovo, un po' migliore, un po' prima di quanto sia necessario. Questa è la voce di Brooks Stevens, l'apostolo dell'obsolescenza programmata nell'America del dopoguerra. Questo estroso progettista industriale crea di tutto, dagli elettrodomestici alle automobili e ai treni, sempre partendo dal principio dell'obsolescenza programmata. Radicati nello spirito dell'epoca, i progetti di Brooks Stevens trasmettono un senso di velocità e modernità. Vogliamo distinguerci da quanto fece l'Europa in passato quando ha tentato di realizzare i prodotti migliori e farli durare per sempre. Perciò acquistavi un completo talmente bello che lo indossavi dal giorno del matrimonio fino a quello del tuo funerale, senza aver avuto la possibilità di sostituirlo. Ecco, la proposta dell'America è quella di rendere il consumatore insoddisfatto del bene di cui ha usufruito per un certo periodo, in modo da trasferirlo al mercato di seconda mano e ottenere così un prodotto più nuovo con l'aspetto più nuovo possibile. Brooks Stevens viaggia in tutti gli Stati Uniti per promuovere con discorsi e conferenze l'obsolescenza programmata. La sua proposta diventa il nuovo Vangelo dell'epoca. Design e marketing spingono i consumatori a desiderare con impazienza sempre l'ultimo modello. Mio padre non progettò mai di proposito oggetti che si guastassero o diventassero obsoleti dopo breve tempo per qualche motivo. L'obsolescenza programmata deve essere a totale discrezione del consumatore. Nessuno lo costringe a entrare in un negozio e acquistare un nuovo prodotto. Se lo fa, è perché esercita il libero arbitrio. È una sua scelta. Libertà e felicità raggiunti grazie al consumo illimitato. È questa la formula della società americana degli anni 50 ed è la base della società consumistica come la conosciamo oggi. Da quel momento la crescita è diventata il santo graal della nostra economia. Viviamo in una società in crescita, la cui logica non è crescere per soddisfare i bisogni, ma crescere e basta. Crescere all'infinito, aumentare la produttività senza limiti. E per giustificare tutto ciò, anche il consumo deve crescere all'infinito. Serge Latouche è un famoso critico della società in crescita e ha scritto in modo approfondito sui meccanismi che la governano. Per creare i bisogni artificiali alla base del consumo ci sono tre strumenti fondamentali: la pubblicità, l'obsolescenza programmata e il credito. I critici di questo modello di società in crescita evidenziano che a lungo andare essa diventerà insostenibile perché basata su una palese contraddizione. Chiunque pensi che una crescita illimitata sia compatibile con un pianeta limitato, o è uno sciocco o è un economista. Il problema è che adesso siamo tutti economisti. Vivere in una società in crescita è come stare dentro una macchina da corsa ormai priva di un pilota, un bolide che viaggia a tutta velocità. È facile intuire come andrà a finire. O si schianterà contro un muro, oppure precipiterà in un burrone. Pochi consumatori occidentali sanno che oltre la cortina di ferro, nei paesi del blocco comunista esiste un'intera economia priva dell'obsolescenza programmata, come racconta il giornalista Helmut Hoge. L'economia comunista, inefficiente e afflitta da una cronica scarsità di risorse, non è governata dal mercato libero, bensì pianificata centralmente dallo Stato. In un tale sistema, l'obsolescenza programmata non ha ragione di esistere. Nella Germania orientale, la più efficiente tra le economie comuniste, il regolamento ufficiale prevede che frigoriferi e lavatrici debbano funzionare almeno per 25 anni. Ho comprato questo frigorifero tedesco nel 1985. Anche le lampadine sono dell'epoca. Non le ho sostituite neanche una volta, quindi hanno la stessa durata. Nel 1981 un'azienda elettrica della Berlino Est lancia una lampadina di lunga durata. La nuova invenzione viene portata ad una fiera internazionale dell'elettricità in cerca di acquirenti occidentali. Quando i produttori della Germania dell'Est presentarono queste lampadine di lunga durata alla fiera di Hannover nel 1981, i loro colleghi dell'Ovest dissero: diventerete tutti disoccupati. Ma gli ingegneri della Germania dell'Est risposero: no, al contrario, dato che risparmieremo le risorse ed eviteremo di sprecare il tungsteno, riusciremo a conservare i nostri impieghi. Gli acquirenti occidentali rifiutano le lampadine a lunga durata. Poi, nel 1989, cade il muro di Berlino. La fabbrica viene chiusa e la lampadina longeva della Germania dell'Est va fuori produzione. Oggi la si può trovare solo in mostre e musei. Dopo la caduta del muro, il consumismo dilaga sia a est che a ovest. Ma con l'avvento di internet i consumatori sono pronti a contrastare violentemente l'obsolescenza programmata. Il primo video da noi realizzato che ebbe un grande successo era sull'iPod. Ero completamente al verde. Quando comprai questo iPod costava sui $400-500. Dopo circa 8 mesi, o forse un anno, la batteria si ruppe. Allora chiamai l'Apple chiedendo di sostituire il pezzo. Ma all'epoca la loro politica era quella di dire ai clienti di comprare un altro iPod. Il problema non era tanto la batteria, perché se quella del mio cellulare si rompe, ne compro una nuova. Posso sostituire anche quella del mio computer Apple, ad esempio. Invece, per l'iPod, si tratta di un hardware molto costoso. Se si rompe la batteria, devi per forza ricomprarlo. Quindi mio fratello pensò di girare un filmato proprio su questo. Siamo andati in giro per la città armati di bombolette spray e abbiamo marcato ogni pubblicità di iPod con questa scritta: la batteria dell'iPod dura solo 18 mesi e non si può sostituire. Abbiamo messo il video sul nostro sito iPodDirtySecret.com. Dopo solo 6 settimane il sito ha totalizzato tra i 5 e i 6 milioni di visitatori. Sono tutti impazziti per quel video. Elizabeth Pritzker, un avvocato di San Francisco, è venuta a conoscenza del video e insieme ai suoi soci ha deciso di intentare causa alla Apple per la durata della batteria. Mezzo secolo dopo il caso della lampadina, l'obsolescenza programmata torna di nuovo in tribunale. Quando abbiamo intentato questa causa, l'iPod era in commercio da 2 anni e la Apple ne aveva già venduti circa 3 milioni di pezzi, sia negli Stati Uniti che nel mondo. Molti dei 3 milioni di possessori di iPod hanno avuto problemi con la batteria. Sono quindi lieti di unirsi alla causa. Tra loro anche Andrew Wesley. Il mio ruolo in quella situazione fu quello di portavoce collettivo di 1.000 o forse 2.000 persone. Tutti ormai chiamavano la causa Wesley contro Apple. Nel dicembre 2003, Elizabeth Pritzker presenta la citazione al tribunale della contea di San Mateo, a pochi isolati dalla sede della Apple. Chiedemmo alla Apple una serie di documenti tecnici che riguardavano la durata della batteria dell'iPod. In quel modo ottenemmo molte informazioni sulla progettazione della batteria e sul suo collaudo. Scoprimmo così che il tipo di batteria a litio che si trovava all'interno di questo iPod era stato progettato proprio per avere una breve durata. Dopo mesi di trattative molto serrate, le parti raggiungono finalmente un accordo. L'Apple istituisce un servizio di sostituzione delle batterie e prolunga la garanzia a 2 anni. Tutti i querelanti ottengono un risarcimento. Ma l'altro reale problema che crea un consumo così esagerato e nevrotico è legato allo smaltimento dei rifiuti. Ne parla il giornalista Mike Annan. L'obsolescenza programmata produce un flusso continuo di rifiuti che viene poi spedito nei paesi del terzo mondo, come il Ghana, in Africa. Circa 8-9 anni fa, notai che migliaia di container arrivavano in questo paese insieme ai rifiuti elettronici. Si trattava di vecchi computer e televisori che nessuno voleva più nei paesi sviluppati. Spedire rifiuti elettronici nei paesi del terzo mondo è proibito dalle leggi internazionali, ma tutti continuano a farlo grazie ad un espediente semplicissimo. Basta dichiararli merce di seconda mano. Più dell'80% dei rifiuti elettronici che arriva in Ghana è totalmente impossibile da riparare e interi carichi di container sono abbandonati in discariche in ogni parte del paese. Alcuni organizzatori delle spedizioni hanno detto: stiamo cercando di abbattere la barriera digitale tra l'Europa, l'America, l'Africa e il Ghana. Ma la realtà è che i computer che arrivano qui non funzionano. È assurdo ricevere rifiuti elettronici se non riesci a gestirli e per di più non sei tu a produrli. In questo modo il tuo paese diventa solo il cassonetto dell'immondizia mondiale. Le generazioni future non ci perdoneranno mai. Saranno loro a subire gli effetti di uno stile di vita basato sullo spreco della popolazione nei paesi sviluppati. Dappertutto nel mondo la gente ha iniziato a combattere l'obsolescenza programmata. La lotta di Mike Anani parte dalla fine del processo. Anani ha cominciato a raccogliere informazioni. Qui è dove metto i rifiuti elettronici che hanno etichette di valore o di proprietà. Ho un database che contiene le etichette di valore, gli indirizzi di contatto e i numeri di telefono delle società che hanno scaricato rifiuti elettronici in Ghana. Mike Anani intende trasformare queste informazioni in prove per un eventuale processo. Dobbiamo fare qualcosa, attuare provvedimenti punitivi, denunciare queste persone. Così smetteranno di trasformare il Ghana in una discarica. L'obsolescenza programmata è ormai ritenuto un problema da affrontare e da risolvere. In questa direzione si è mosso Warner Phillips, il discendente della dinastia dei produttori di lampadine, che ha messo in produzione una lampada a LED capace di una durata di oltre 25 anni. Ma la vera rivoluzione è quella immaginata da Serge Latouche, economista e filosofo, e che definisce decrescita. La decrescita è uno slogan provocatorio che mira ad allontanarsi da quella concezione alquanto euforica di crescita produttiva infinita e sostenibile. Lo scopo è promuovere un cambiamento nella logica dei consumi. L'essenza della decrescita può essere ridotta a una sola parola: ridurre. Ridurre il nostro impatto ecologico, ridurre i rifiuti, la sovrapproduzione e il consumo eccessivo. Quando i consumi e la produzione diminuiranno, potremo avere del tempo a disposizione per sviluppare altre forme di risorse, che avranno il vantaggio di non esaurirsi tramite il consumo, come l'amicizia e il sapere. I critici della decrescita temono che questa distruggerà l'economia moderna e ci porterà di nuovo all'età della pietra. Tornare ad una società sostenibile, cioè ad una società in cui l'attenzione per l'ecologia è fondamentale, non significherebbe tornare all'età della pietra, bensì, considerando i parametri di un paese come la Francia, ricominciare dagli anni 60. Dunque non si tratta certo della preistoria. Possiamo dire che la società in decrescita realizzerebbe la visione di Gandhi quando disse: «Il mondo è abbastanza grande per soddisfare i bisogni di tutti, ma sarà sempre troppo piccolo per soddisfare l'avidità di alcuni».